Eccellenza, vado! Hai tuo piacere! Di noi paniere, fa penitenza! Fame non ho! Oh, mi rincresce! Va di qua ne esce più, da! Va! Oh. sei contento? Tanto. Tornalo a dir. Tanto. Lo dici male. Lo dici male. Nulla sospira il nostro casetto e tutto I'm Va, Tosca.

Del giardino va, volendo! Tremare, libertà sorrere. rotta. Il tempo passa, sai quale oscura opera laggiù si compia. Là si drizza un pavimo. parla! Mute d'ancora, parla, guardami, son Tosca, o Scarpia! Soccorso, guaio! Mi soffo che le sangue! Aiuto! Muore dannato! Thank you. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有线频道下面的精彩节目。 Thank you.